Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione, ricerca e startup oggi in primo piano. Vi portiamo in Svizzera, dove vi racconteremo una storia che unisce proprio queste due dimensioni, sempre più presenti nella narrativa dei nostri cervelli all'estero. Perché chi l'ha mai detto che università e azienda debbano necessariamente viaggiare su binari paralleli? E quanto determinati modelli possono venire sempre più diffusi nella penisola? Sempre in tema ricerca voleremo più tardi in Australia per raccontarvi una nuova comunità tricolore nata a Perth. Giovani talenti. La frase della settimana è copyright della presidente della Camera Boldrini. Un paese che non valorizza il meglio di sé è un paese che farà fatica a progredire e ad avere un futuro. I giovani cervelli molto qualificati purtroppo in Italia non riescono ad avere un percorso e una carriera. La loro fuga sta a indicare che dobbiamo investire di più in ricerca e innovazione e dare a questi nostri talenti la possibilità di stare nel proprio paese e crescere qui. Così la Boldrini. L'Italia è il paese europeo dove più disoccupati hanno rinunciato a cercare lavoro all'inizio dell'anno. Oltre uno su tre è finito a gonfiare le fila degli inattivi, secondo dati Eurostat. La quota delle persone passate dalla disoccupazione all'inattività è del 37% nel primo trimestre dell'anno, più del doppio rispetto alla media europea. Nello stesso periodo solo il 12% dei disoccupati italiani ha trovato lavoro. Intanto, secondo gli ultimi dati Istat, la disoccupazione giovanile è scesa ad agosto al 38,8%, in lieve calo. E poi c'è chi all'estero non solo trova un'occupazione nel campo della ricerca, ma si fa addirittura imprenditrice. Vedo ancora l'Italia un po' restia a valorizzare chi ha un dottorato. Il mondo delle start-up può aiutare a creare dei ponti tra il ricercatore specializzato e l'industria. Claudia Cocciago, 31 anni, una ricercatrice e start-upper a Losanna, in Svizzera. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Aumenta il numero di laureati italiani che emigrano, si tratta di un dato in costante crescita dal 2009. Lo scorso anno i laureati cancellati dalle anagrafi sono stati quasi 24.000. In 14 anni si calcola che abbiano lasciato la penisola 202.000 diplomati e 145.000 laureati non compensati dai connazionali che hanno preso la via del ritorno. Questi alcuni dei dati contenuti in una ricerca dell'Istituto di Studi Politici San Pio V. Attualmente su quasi 5 milioni di cittadini italiani residenti all'estero, i laureati sono stimati in 450.000. E se sono pochi i dottori che rimpatriano, è fortunatamente aumentato il numero dei laureati stranieri residenti in Italia, 500.000. Tuttavia i laureati che vivono in Italia, tra italiani e stranieri, sono al di sotto della percentuale delle persone con istruzione superiore riscontrabile nell'Unione Europea, evidenzia il rapporto che sottolinea la necessità di maggiori investimenti in istruzione, ricerca e sviluppo. Conferma Eures, sono oltre 52.000 gli italiani, spesso professionisti, che cercano lavoro in Europa, ben 40.000 in più di francesi e tedeschi. Se sul fronte della ricerca di lavoro mostriamo una forte propensione all'espatrio, su quello dell'offerta di impiego invece il database comunitario indica che è la Germania a fare la parte del leone, con 500.000 di posizioni aperte e disponibili. Neppure 2.000 le offerte di impiego dall'Italia verso potenziali dipendenti stranieri. Il bel paese non regge il confronto col vicino tedesco. Quel che è peggio, per ogni straniero che fa domanda per un posto di lavoro nella penisola ci sono 50 italiani che chiedono di andare all'estero, evidenziando un chiaro squilibrio nel saldo potenziale di capitale umano. C'è un grande collegamento enorme tra fuga di cervelli e corruzione. A sottolinearlo è stato il responsabile dell'ANAC Cantone. Per Cantone l'ANAC è subissata di segnalazioni su presunti casi di corruzione negli atenei italiani. Una famiglia lombarda su 10 dichiara che attualmente col proprio reddito contribuisce al mantenimento di un giovane lavoratore ancora sotto il tetto casalingo, che vorrebbe, se potesse, divenire indipendente. E quanto emerge da un'indagine della Camera di Commercio di Monza e Brianza. Tempi duri per le grandi università britanniche nel post-Brexit. Il loro primato è stato intaccato, come emerge dall'ultima classifica QS. Per la prima volta Cambridge scivola al quarto posto dietro un podio tutto americano: MIT, Stanford e Harvard. È sempre molto staccato in graduatoria però le università italiane, prime tra tutte il Politecnico di Milano al 183° posto, tutte le altre a partire da Bologna dopo la 200° posizione. Tra i 22 italiani che si sono visti assegnare gli ambiti Starting Grants per la ricerca da parte dell'Unione Europea, solo 10 svolgeranno l'attività nel nostro paese, il che rende la penisola ancora una volta meno attraente di altre nazioni come la Germania, che occupa il primo posto, seguita da Gran Bretagna e Francia. Notizia di servizio: nel programma europeo per la ricerca Horizon 2020 saranno considerati nuovamente come costi ammissibili gli assegni di ricerca e gli altri contratti precari, come le collaborazioni coordinate e continuative e quelle a progetto. Saranno dunque accettati dall'Europa per le rendicontazioni, a dare notizia al ministro dell'Università Giannini. Menzione speciale per chiudere per il nuovo commissario straordinario per il digitale, Diego Piacentini, rientrato da Amazon e dagli Stati Uniti, scegliendo l'Italia per 2 anni per lavorare gratis per l'amministrazione pubblica. Nei miei 16 anni negli Stati Uniti sono stato contagiato da un'idea forte, quella di restituire al proprio paese, alla propria scuola, alla propria università. Ho capito che l'idea di restituire, il give back, non appartiene al nostro DNA, ma forse il mio caso, dice Piacentini, può aiutare l'Italia a cambiare mentalità. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Svizzera. Oggi incrociamo i mondi di ricerca e startup. Nome: Claudia Maria. Cognome: Colciago. Età: 31. Città di origine: Verano Brianza. Studi: ingegneria matematica e dottorato in matematica. Anno in cui hai lasciato l'Italia: alla fine del 2010. Per andare dove? Per andare in Svizzera, a Losanna. Perché? Per fare un dottorato. Quale lavoro svolge attualmente? Sono una postdoc, una ricercatrice in università. Dove? Sempre a Losanna. Tornerai? Tutto è possibile. La mia prossima sfida sarà far diventare il mio progetto di ricerca un business vincente. Così scrivi Claudia, guardando con grande convinzione al futuro, a giovanitalenti@radio24.it. Ricerca e imprenditoria, il binomio giusto del prossimo decennio. Ti chiedo, quante opportunità vedi aprirsi potenzialmente per i giovani scienziati? Binomio giusto lo è sempre stato, non è solo quello del prossimo decennio, perché comunque per fare un'industria vincente bisogna poter investire nella ricerca e in una tecnologia all'avanguardia. Il numero di possibilità dipende un po' dal talento del giovane scienziato stesso e dal raggio geografico in cui si cerca. Il vero punto di svolta per te avviene al liceo scientifico, quando partecipi al concorso FAST per i giovani e le scienze, concorso che vi porta in finale a Phoenix. Quale spinta motivazionale ti fornisce quell'esperienza? Il concorso era stato fatto in collaborazione con il Politecnico di Milano, quindi per me è stato il primo contatto che c'è stato con il Dipartimento di Matematica del Politecnico. E poi, seppur io all'epoca non parlassi molto bene l'inglese, mi ricordo solo quanto ero esaltata nel discutere il programmino di crittografia che avevamo fatto con persone che arrivavano addirittura dalla NASA. E perché poi scegli di iscriverti a Ingegneria Matematica al Politecnico? Beh, già dal nome Ingegneria Matematica riassumeva quello che io volevo fare. Io sono figlia di ingegneri, ma ho sempre avuto una passione per la matematica e mi ha sempre divertito fare matematica al liceo, e per me poter studiare matematica e scienze delle costruzioni allo stesso momento ovviamente era difficilissimo ma molto stimolante. Allora, ti laurei al Politecnico, prima in biennale poi in specialistica. Il tuo voto all'università italiana è un numero? 9. E considerata la tua esperienza successiva all'estero, consiglieresti un espatrio fin dagli studi ad aspiranti ingegneri? Dipende a cosa uno punta. Se uno punta ad un'esperienza di vita, imparare una lingua, sì, ma la formazione che si può avere soprattutto al Politecnico di Milano difficilmente la si ritrova all'estero. C'è un secondo punto di svolta nella tua storia, e cioè la conoscenza col professor Alfio Quarteroni, che tra poco ci raggiungerà in onda e che incontri attraverso il tuo relatore di tesi. Cosa ti propone di fare e dove? Mi propone di fare uno stage a Losanna. Io all'epoca avevo fatto la tesi con il professor Paolo Zunino, quindi Alfio non mi conosceva, e io puntavo ad ottenere insomma un dottorato a Losanna. Dopodomani me ne andrò da questi lidi, cercherò asilo negli Stati Uniti, e a Livorno è pronto già un battello che porterà lontano il mio cervello. A dicembre 2010 inviai la mia candidatura spontanea per un dottorato all'EPFL di Losanna. A fine gennaio dell'anno successivo mi iscrissi ufficialmente alla scuola di dottorato. Allora Claudia, primo punto, com'è stato il processo di selezione? Il processo di selezione avviene più come avviene in un'azienda privata, quindi io ho mandato la mia candidatura, ho mandato il curriculum, i record dei voti scolastici, la lettera di motivazione, le referenze, e poi c'è stato un colloquio che, nel mio caso, avendo già fatto un periodo nel laboratorio del professore, era un colloquio più per definire il tipo di progetto su cui avrei lavorato. È stato semplice trasferirsi in Svizzera? Questo lo chiedo anche come dritta per potenziali expat. Beh, bisogna fare tutte le pratiche che bisogna fare quando si fa un trasferimento. In Svizzera, in particolare a Losanna, la cosa estremamente difficile è trovare casa. Questa è una costante che sento ripetere, insomma, da tutti quelli che vogliono venire a vivere qui. Su quale progetto hai lavorato nei 3 anni e mezzo di dottorato? Ho lavorato su modelli ridotti per applicazioni alla biomedica. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Claudia Colciago, 31enne ricercatrice e start-upper in Svizzera, una carriera universitaria a cavallo tra l'Italia e la Federazione Elvetica, quella di Claudia, che nell'ultimo periodo ha incrociato la strada dell'azienda con un team tutto al femminile, perché quello di oggi è un mondo che cambia radicalmente anche in università. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. Alla fine del dottorato opti per un postdoc a Milano. Che impressione ti ha fatto tornare lavorativamente in Italia? Che paese hai trovato? Devo dire che sono stata fortunata perché sono tornata nel Dipartimento del Politecnico di Milano, dove il livello di preparazione è comunque molto elevato. L'impressione è che in Italia, come in altre università del mondo, le persone che lavoravano lì avevano avuto un percorso molto più lineare, quindi avevano studiato, magari fatto il dottorato e stavano facendo ricerca sempre nello stesso dipartimento. L'impressione generale è che ho trovato delle persone molto più preoccupate del loro stato di precarietà, giustamente. E questo purtroppo è un tema che conosciamo bene. C'è poi una terza fondamentale svolta, ti porta sulla strada della ricerca applicata e ti riporta indietro a Losanna. Siamo nell'ottobre 2015. Quale progetto nato nel tuo ex team di ricerca ti convince a riprendere la strada svizzera? Allora, il professor Quarteroni aveva vinto un grant europeo che si chiama Proof of Concept per fare un'applicazione specifica, precisa, che andasse nelle mani di un medico, basata sugli anni di ricerca applicati al cardiovascolare, che era la ricerca che era stata svolta precedentemente. Parte di questo progetto era basato anche sui risultati ottenuti durante la mia tesi di dottorato. Era un progetto estremamente applicato che voleva mettere la matematica nelle mani del medico, e questo in quel momento mi interessava molto. Quindi, se dovessi spiegare il prodotto che state realizzando ora? È una piattaforma web che aiuta lo specialista vascolare in tutte le fasi dell'analisi e del trattamento degli aneurismi dell'aorta addominale, quindi dalla visualizzazione delle immagini medicali uscite dalla TAC, al dimensionamento dell'aneurisma, alla caratterizzazione morfologica e anche biomeccanica dell'aneurisma stesso, e infine al supporto nella configurazione di specifici device medici per poi andare a fare l'intervento chirurgico. La cosa più interessante è che siete un team, metà o anche di più team sta a Milano, e siete al femminile, siete una startup al femminile, no? Sì, il cuore tecnico, diciamo, è al femminile, perché poi abbiamo anche il supporto, insomma, di un chirurgo vascolare e di un CEO di un'azienda di Milano, però il cuore tecnico è al femminile. A Milano con me ci sono Chiara, Valeria, e negli ultimi mesi si è aggiunta anche Lisa, e ci tengo a sottolineare che Chiara ed Elisa sono un altro esempio di due cervelli che si sono formati, hanno lavorato all'estero, ma che adesso, insomma, lavorano in Italia. E qui mi inserisco, cioè giovani professionisti o ricercatori all'estero come te che costruiscono ponti e progetti con i colleghi rimasti in Italia. Può essere questo un trend in grado di arricchire il nostro paese? Un valore aggiunto? Sicuramente sì, può essere un trend. Ovviamente avere un collegamento con l'estero allarga gli orizzonti. Per farti un esempio, noi abbiamo fatto le nostre ricerche di mercato e ovviamente non ci siamo concentrati solo alla Svizzera o solo all'Italia, ma già le abbiamo fatte con un'ottica di guardare i mercati internazionali, di guardare al mercato degli Stati Uniti, al mercato del Giappone. Poi faremo passo passo, però lo sguardo è sicuramente più ampio. La nostra domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire. Parlo per la mia categoria e vedo ancora l'Italia un po' restia a valorizzare chi ha un dottorato. Secondo me il mondo delle start-up può aiutare a creare dei ponti tra il ricercatore specializzato e l'industria. E questi ponti aiutano non solo il ricercatore ad entrare in contatto con l'azienda, ma anche all'azienda a capire il valore aggiunto che una persona altamente specializzata e con le idee nuove può portare all'industria italiana. Ci raggiunge ora in linea Alfio Quarteroni, professore di analisi numerica al Politecnico di Milano e docente di modellistica e calcolo scientifico al Politecnico di Losanna, nonché fondatore del centro di ricerca MOX. Buon pomeriggio. Buongiorno. Professore, ogni storia, soprattutto se stimolante, ha una morale. Quale vede lei in quella di Claudia? Quale insegnamento? Forse direi quello di non temere di lasciare posizioni anche comode, magari talvolta, per cercare di far crescere la propria conoscenza e la propria esperienza professionale. Io penso che se si ha l'intelligenza, la determinazione per seguire la propria passione e ovviamente anche un po' di disponibilità a sacrificarsi, il merito poi viene assolutamente premiato. Professore, il suo curriculum parla da solo, con esperienza a livello internazionale di altissimo profilo, però mi vorrei concentrare su due delle sue creazioni più prestigiose, il MOX e il MOX-OFF. In estrema sintesi, cosa sono? In astratto volevo dimostrare con i fatti che la matematica è una scienza viva, fondamentale per la nostra vita, così come lo sono altre scienze, creando ponti sia dentro l'università che fuori dall'università, con le realtà più disparate, le piccole aziende, le medie aziende, le grandi aziende, i centri di ricerca. La storia di Claudia ci insegna che i cervelli circolano in un mondo ideale, cogliendo le opportunità migliori. Negli ultimi anni, le chiedo, lei ha visto l'Italia instradarsi verso il divenire un paese di circolazione dei cervelli oppure ancora la fuga a prevalere? Vorrei poter dire che c'è circolazione, anche se il flusso è negativo per l'Italia, nel senso che sono molti di più ancora quelli che escono rispetto a quelli che entrano o che rientrano. Credo che questo sia un problema reale, un po' endemico per l'Italia, e credo sia una grandissima occasione persa per il nostro sistema, il quale fornisce forma delle persone straordinariamente forti e poi non le motiva abbastanza per tenerle. Nella storia che abbiamo raccontato ci sono due aspetti importanti, la startup innovativa e la ricerca applicata, due aspetti fondamentali. Quanto vede l'Italia avanzata in questo senso? L'Italia ha delle grandissime capacità e anche delle grandi realtà, non ha solo potenzialità. Ci sono dei centri di ricerca straordinari, dei ricercatori, degli scienziati straordinari. La nostra università è tanto, c'è una stampa pessima sulla nostra università, ma in realtà nella sostanza riesce a fare delle cose straordinarie. Dal punto di vista della creazione di start-up, il discorso, per come l'ho vissuto io, lì direi che le note sono un pochino più negative. C'è un grandissimo fermento creativo in Italia, tantissimi dei giovani sono molto preparati e molto fantasiosi. Ci sono tantissimi semi importanti che secondo me dovrebbero essere raccolti con maggiore coraggio dal venture capital, da chi può correre rischi e investire. Le chiedo un consiglio a un giovane aspirante ricercatore. Qual è il suo personale consiglio? Dove andare soprattutto per inseguire la propria passione? Io penso che la cosa fondamentale sia che una persona capace decida bene intanto qual è il soggetto che gli interessa, dove lo porta il suo cuore scientifico, la sua passione scientifica. E poi deve fare molta attenzione nello scegliere il centro di ricerca, l'università, l'istituto, in Italia o all'estero, anche in Italia naturalmente, e il professore nelle cui mani sostanzialmente sta mettendo una buona parte del suo futuro. Grazie al professor Alfio Quarteroni. E domanda di rito per Claudia Colciago: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? L'estero non risolve i problemi a priori, sicuramente. Non bisogna spaventarsi dei rifiuti, nel senso che si possono fare dei colloqui, si possono avere dei no. L'importante è avere un feedback, chiedere un feedback, non aver paura di disturbare, in modo tale da potersi sempre migliorare. E poi, nel momento in cui c'è un'occasione, di prenderla, di non aver paura di rischiare. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un economista del settore acque per la European Investment Bank, sede di Lussemburgo, scadenza per i CV 9 ottobre, info su irecruitment.eib.org. Un ingegnere esperto in sicurezza nucleare per il progetto ITER a Cadarache in Francia, scadenza per i CV 16 ottobre, info su iter.org/jobs. E infine un professore in tossicologia con specializzazione in sicurezza alimentare alla Swedish University of Agricultural Sciences di Uppsala in Svezia, scadenza per i CV 28 novembre, info su slu.se. E siamo giunti ad Expat, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Oggi vi facciamo volare fino in Australia per raccontarvi la storia di un gruppo di ricercatori italiani, The Italian Scientists and Professional Community in WA. Il gruppo ha sede a Perth, Australia occidentale, e punta a riunire la comunità accademica e professionale emigrata dal bel paese fin negli antipodi. Ai nostri microfoni Carlo Guaia, fondatore del gruppo. L'associazione nasce a ottobre del 2015, è nata dall'esigenza di unire la comunità italiana qui in Western Australia, specialmente quella dei professionisti e accademici italiani. E l'obiettivo è quello di riuscire a facilitare la collaborazione fra i professionisti del settore privato e gli accademici presenti qui in Western Australia. Quanti siete? Allora, al momento la nostra, diciamo, membership è di circa 900 membri. Che comunità è la vostra? Non siete pochi, siete in un paese molto lontano. Cosa vi ha portato fino in Australia? Molte persone sono presenti qui in Australia, sono per motivi di lavoro. Alcuni lavorano, ad esempio, per grandi compagnie come l'ENI, l'Ansaldo, oppure si occupano di ricerca nel campo dell'ingegneria chimica qui alla Curtin University. Sono vari profili professionali. E l'età media? L'età media dai nostri sondaggi risulta 30 anni e sono generalmente professionisti presenti qui in Australia da almeno 3 anni. Cosa li ha portati a lasciare l'Italia? Immagino opportunità di lavoro migliori e poi specialmente nel campo della ricerca il fatto che l'Australia investa sempre di più sui talenti nei loro, diciamo, centri di ricerca scientifici per poi avere delle applicazioni pratiche nella vita di ogni giorno. Ecco, infatti, cosa offre esattamente l'Australia a un giovane ricercatore che si sposta, per esempio, a Perth? Molti di questi centri di ricerca sono abbastanza attivi con le industrie, quindi permettono a questi giovani ricercatori di applicare le proprie ricerche in dei campi pratici. Qual è l'obiettivo della vostra associazione? Diciamo, a lungo termine noi vorremmo realizzare più scambi fra le università del Western Australia e l'Italia, garantire che accademici australiani possano andare in Italia a fare degli studi di ricerca e viceversa degli accademici italiani possono venire qui in Western Australia a seguire altri studi. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.ispcwa.com. Un motivo per restare o tornare. I rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati attraverso le agevolazioni contributive nel corso del 2015 sono stati oltre 1,5 milioni, con un impatto proporzionalmente maggiore sul lavoro femminile e sui giovani. E quanto riporta il primo quaderno di monitoraggio sui contratti di lavoro dopo il Jobs Act. E per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Giovani Talenti Radio 24 o nella pagina Giovani Talenti. Siamo presenti anche su LinkedIn col gruppo La Fuga dei Talenti e potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Siamo allo spazio Internective, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda, aspettiamo le vostre domande, le idee, proposte, riflessioni e anche denunce. Per mettervi in contatto con noi è molto semplice, basta scriverci a giovanitalenti@radio24.it. E vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, candidatevi, aspettiamo le vostre lettere a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.